avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail. Ça fait déjà. Io non vorrei questa mattina far crollare nell'allarmismo una giornata già difficoltosa che è iniziata con questa mattinata. Milano allagata, la metropolitana ferma. Vedo lungo la strada volti cupi e arrabbiati, soprattutto di persone anziane. Sì, perché questo è il punto. Vi state rendendo conto che sta accadendo qualcosa nella nostra società ad onta di ogni speranza, di ogni messaggero che annunziava l'arrivo finalmente di una nuova società fatta di giovani efficienti, aperti, sorridenti, freschi, profumati, che in realtà questo progetto è totalmente tracimato, tracollato, l'efficientismo, il giovanilismo, dove sono finiti? E queste riflessioni che noi facciamo amaramente, così a mezza bocca, qualcuno probabilmente le sta facendo dentro di sé da molto tempo e si sta organizzando. Vi rendete conto che un umarelle di 60-70 anni ha tentato di ammazzare un vescovo? Monsignor Betori, il vescovo di Firenze, ha sparato al suo portaborse, al suo vice che è all'ospedale, anche in gravi condizioni, e ha puntato la pistola alla nuca del vescovo. E la pistola si è inceppata, probabilmente una vecchia arma dei tempi della Resistenza. È scappato, stanno cercando il latitante. Vi rendete conto che una signora ha tentato di uccidere ieri un uomo di 80 anni, iniettandogli con una siringa della benzina nel succo di frutta? Perché? Quale segreto ce l'aveva quest'uomo? Quale pericolo rappresentava questa giovane donna? Beh, questa mattina vi rivelerò l'esistenza di un gruppo anarco-insurrezionalista, ma che in realtà tende a passare alla fase giovanile, la fase embrionale della rivoluzione, a riportare la società in un stato di ordine, di giustizia sociale, di regolarità, e sanno che questo prezzo costa tantissimo e il prezzo sarà una rivoluzione dura, una rivoluzione cruenta. Si stanno muovendo, sono fra noi, qualcuno sta cominciando a notare apparentemente la loro rabbia, il loro risentimento delle manifestazioni di piazza in questi giorni nelle città colpite dalle alluvioni, dai disastri ambientali. Ci sono sempre più persone anziane che dicono: io lo so, ho misurato l'acqua, lo vedevo, me ne rendevo conto, io sapevo cosa fare, perché non mi hanno chiesto a me? Beh, chi sono questi? Questi sono gli uomini e i combattenti delle Brigate Nonni. Di colpo, i soldi per pagare le pensioni a decine di migliaia di cittadini giunti a tre quarti della fune non c'erano più. Bruciati, dissolti, svaniti, mangiati, bevuti, pippati, fumati dalla banda che reggeva i capi della corda. Nessuna ricchezza fresca arrivava dalle nuove generazioni e dagli immigrati. Giovani vittime ancora più precarie del gioco della fune, ormai finissima e resa scivolosa dall'unto che colava dai lussi del potere. Dopo decenni di lavoro, centinaia di migliaia di cittadini si trovarono sospesi e abbandonati. Che cosa fare? Precipitare soli nell'abisso e schiantarsi sulla terra fumante, come le vittime dell'11 settembre soffiate nel vuoto dal rogo delle torri? O cercare nei bulbi smarriti dei propri simili vene ardenti di rabbia e assetate di coraggio? Combattere perché costretti, come i Navajo. Fu così che nacquero le Brigate Nonni. 800 24 0024. Se qualcuno delle persone che sono in ascolto appartiene a un fiancheggiatore, un semplice simpatizzante o anche un militante delle Brigate Nonni, vi prego di chiamare questa mattina. Vi assicuro copertura e anonimato, vi considererò come mie fonti privilegiate, essenziali e riservate, e non farò mai il vostro nome. Però fatemi sapere esattamente come vi state muovendo, qual è la vostra rabbia, come vi state organizzando. Brigate Nonni è un termine coniato da un mio collega, un giornalista, uno scrittore, che addirittura ha scritto un libro su questo movimento, un libro che è uscito per la collana Storie dell'editore Cooper, Brigate Nonni, i ribelli al tramonto, e lo scopritore, l'esegeta, il cronista delle Brigate Nonni è Matteo Speroni. Matteo Speroni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Quali sono i vantaggi per cui si muovono queste Brigate Nonni rispetto ad altri tentativi di sommossa, di sovvertimento dell'ordine costituito? Innanzitutto il numero, sono più loro numero degli altri, è il numero precipuo. Sono tantissimi, sono centinaia di migliaia di persone unite da una solidarietà silenziosa, da una solidarietà data dalla disperazione di non poter più avere il diritto alla pensione. Si muovono nell'ombra, lentamente, silenziosi, con più esperienza dei giovani, questo è il loro punto di forza. Ecco, loro sanno fare delle cose concrete, i giovani non sanno più fare. Questo è il loro problema. I nonni si stanno organizzando. Poi hanno un temperamento, leggo nelle note, nell'analisi che fai del combattente dei Brigate Nonni, un temperamento più riflessivo di quello di un ragazzo. Non essere impetuosi, il peso dell'età in realtà è un vantaggio operativo. È un vantaggio di esperienza, è un vantaggio di consapevolezza, di pensare ai propri movimenti. E in più gli anziani hanno ancora una manualità, hanno imparato tante cose nei decenni, anche tante cose antiche, che per organizzare una ribellione possono servire, tante cose pratiche. Per cui il vantaggio degli anziani soprattutto è l'essere riflessivi, consapevoli e avere una grande esperienza. E soprattutto non hanno nulla da perdere. Non hanno nulla da perdere. Se non fanno questo muoiono. Esatto, e in questo caso la categoria della disperazione diventa un grandissimo punto di forza. Ecco, tu hai individuato, la tua analisi parte da un quartiere di Milano, non a caso oggi sono a Milano, voglio rendermi conto di persona di quello che sta accadendo, perché nessuno se ne accorge, non ci si fa caso, si tende a sottosviluppare, a sottovalutare il problema. I protagonisti sono i giovani disoccupati, i protagonisti sono i giovani ribelli, i protagonisti sono i giovani antagonisti, ma il vero antagonismo, quello concreto, quello che realmente si presenta come una forza avversiva che rischia di sovvertire quello che l'ordine è costituito in questo paese, è fatto di nonni. Quale zona in particolare operativa tu hai osservato e analizzato? Beh, nella mia città, Milano, che appunto è la città dove sono nato e cresciuto e che conosco, ho individuato nei quartieri più popolari, per esempio adesso nella zona di via Padova, Milano, i quartieri dove si stratificano immigrati e si stratifica anche la disperazione, e dove chiaramente gli anziani possono muoversi più nell'ombra perché possono sfuggire anche ai controlli della polizia, alle retate, esattamente come potevano fare. Ecco, come operano, come sono organizzati? Sono organizzati in strutture chiamate frange, sono frange operative e sono legati in una struttura orizzontale. Ogni frangia si muove autonomamente, è composta da un numero di persone inferiori a 10, ognuna con un preciso compito, e il capo della frangia decide in assoluto l'operatività delle azioni. Ecco, la fascia d'età dei combattenti delle Brigate Nonne è tra i 60 e i 70 anni. Quindi quasi dei baby pensionati alla luce, diciamo, delle ultime idee che stanno girando, quindi 60 anni ancora è una persona che non diremmo che appartiene. Io 60 anni ce l'ho fra 5-6 anni, anche meno forse, quindi già potrei essere arruolato nelle Brigate Nonni. Ecco, come operano, diciamo, come si impadroniscono nel territorio? Hanno anche forme molto spregiudicate, ho visto un attimo nel tuo dossier, in questo libro Brigate Nonni, creando le forme molto subdole, anche se già usate, per combattere o perlomeno per asservirsi, l'immigrazione islamica, fanno bere gli islamici come facevano con i Pelle Rossa, che davano il cattivo whisky per poi vendergli le armi, qualcosa del genere. Sì, però poi dopo se trovano solidarietà da parte degli immigrati, anzi si cercano di solidarizzare e cercano di fare smettere, per esempio, di bere i musulmani che proprio grazie all'alcol spesso perdono la testa, e questo è voluto più dal potere che dai ribelli. Quindi, diciamo, trovano delle forme di alleanza, cercano delle sacche di ribellione, emarginazione, delle minoranze con cui allearsi. Ma per darvi la dimostrazione che questo di cui stiamo parlando non è una nostra lucubrazione, ma un fenomeno che è abbastanza diffuso nel nostro paese, vi do un'altra testimonianza che è in un'altra città italiana. Danilo Maso Masotti, buongiorno. Buongiorno. Tu sei stato un anticipatore, un profeta inascoltato dell'esistenza delle Brigate Notti. Mi sai dire? Se ne stanno accorgendo. Se ne stanno accorgendo finalmente. Dammi un'idea anche di Bologna, quello che sta accadendo. Noi abbiamo scherzato molte volte, l'abbiamo fatto oggetto di facezia, di scherzo, ma è ora di non scherzare più. È ora di analizzare questo fenomeno con attenzione e anche con un certo timore. Cosa sta accadendo a Bologna? Detto questa sigla degli Umarell su cui abbiamo tanto riso, in realtà come si stanno organizzando? Quali sono i loro punti di forza? Allora, a Bologna si stanno organizzando ovviamente nei loro garage. Scusa un attimo, Danilo, io vi prego, 800 24 0024, da tutta Italia, se avete segnalazioni o se avete voi stessi da portare testimonianze che ci possano aiutare a completare questo quadro, ve ne saremmo veramente grati. Prego, Danilo Maso Masotti. Allora, a Bologna si stanno organizzando ovviamente nei loro garage, nelle loro cantine. Queste sono le falangi, diciamo, più violente di Umarels, perché all'interno dei loro garage, delle loro cantine, nascondono degli arsenali che al momento non conosco neanche io, però so che si stanno organizzando lì. Invece ci sono altri Umarels che si stanno organizzando per combattere contro i simboli. Questo è interessante, questa sorta di battaglia iconoclasta per dimostrare che la loro rivoluzione non è soltanto legata agli aspetti pratici, speculativi, ad avere più soldi di pensione, avere un pasto caldo, ma vogliono fare una battaglia anche ideologica. Contro quali simboli si muove l'iconoclastia delle Brigate Nonni nella loro declinazione bolognese degli Umarels? I simboli sono le banche, la posta e i supermercati. Punto di forza dell'Umarel è appunto il non lavorare con lentezza, e quindi loro si possono svegliare molto prima e quindi fare degli attacchi alla società, cioè ad orari che nessuno si immaginerebbe. Ecco, questo è un esempio, ne ha messo il dito su un punto interessante. Le brigate degli anziani hanno un uso più intelligente e più esteso del tempo a disposizione, non fanno battaglie per avere più tempo libero, ma vorrebbero avere ancora più tempo, si alzano la mattina presto. Matteo Speroni, le Brigate Nonni come si organizzano? Ci sono dei punti in comune rispetto a quello che sta facendo Masotti? Ma certo, per esempio proprio qua a Milano abbiamo riscontrato nell'inizio proprio del racconto che io faccio il supermercato. Il primo obiettivo è il supermercato, perché nel supermercato ci sono tutte le risorse che servono per la vita quotidiana, quindi è proprio la partenza strutturale di base. E poi il fatto che lavorano tantissimo, dormono poco, per cui si organizzano di notte e agiscono di giorno. Quindi hanno dei vantaggi strutturali e fisiologici enormi rispetto a una classe di giovani che in realtà deve risolvere anche il problema innanzitutto dell'occupazione. Il combattente delle Brigate Nonni, l'Umarel, non è mai disoccupato, anche se è pensionato, perché ha sempre qualcosa da fare. Questo mi sembra già un punto a favore. Secondo, questo attacco ai supermercati in cosa consiste? Parliamo un pochino più dell'organizzazione militare, che è l'aspetto forse più sconosciuto di quelli che hai osservato te a Milano. Sì, l'attacco al supermercato è la prima cosa, perché serve sia per l'approvvigionamento sia per l'autofinanziamento classico, per poter finanziare le azioni, perché con una pensione che quasi non c'è ci sono anche pochi soldi per fare la rivoluzione, per cui bisogna partire anche da operazioni che servono per finanziare questa rivolta. E poi il supermercato, già che ci si è, si prende anche il cibo per la giornata. Danilo Masomasotti, in realtà le Brigate Nonni nella loro colonna bolognese finora hanno anche svolto una funzione che penso che smetteranno di svolgere, di ammortizzatore sociale. Sì. I giovani non avrebbero avuto modo di avere una vita decente o perlomeno dignitosa se non avessero avuto degli Umarelli efficienti alle loro spalle. In che maniera c'è questo supporto occulto, nascosto, sotterraneo da parte delle brigate combattenti anziani nei confronti dei giovani? Gli Umarels, almeno qua a Bologna, non so in altre realtà, fanno parte fondamentale del welfare bolognese. Loro con le loro pensioni finanziano i figli che vanno a lavorare e gli tengono anche i nipoti. Quindi gli Umarels, in un loro attacco di quelli diciamo ideologici, potrebbero veramente chiudere il credito ai più giovani e smettere di fare da supporto come nonni. Ecco, quello sarebbe veramente un grande danno e costringerebbe anche poi i più giovani a reagire. Io interpreto alcuni sms, visto che le telefonate in questo momento sembrano latitare. Mi scrive un ascoltatore molto illuminato, come scrive un sms, che è la maniera più diretta per far sentire la propria voce, è apparentemente anonima, in realtà leggo il suo numero di telefono, ma di che cazzo state parlando? Scrive un altro ascoltatore su un sms, vorrebbe sapere il significato della parola Umarel. Un altro ascoltatore ancora, quando non hai argomenti da trattare mandi un po' di musica e non faccia la marchetta a un libro che nessuno leggerà. Gilberto da Trento. Beh, per questo Gilberto da Trento, per quelli che stanno ragionando in maniera così veemente, dateci il piacere, il divertimento qualche volta di giocare con le metafore, giocare con i paradossi. Il libro di Matteo Speroni è un libro, Brigate Nonni, Ribelli al tramonto, e che è in forma romanzata, ma stiamo parlando di qualcosa che è sotto gli occhi di tutti, qualcosa che è il filo rosso su cui si fanno le tavole rotonde in televisione, su cui la gente scende in piazza, è il problema che sembra cogliere attraverso attraversare il nostro paese. Se una volta tanto lo aggrediamo in maniera non diretta, non facendo parlare gli arrabbiati, non facendo parlare i sindacalisti, non mostrando sempre le solite persone, le solite situazioni, lo raccontiamo sul filo del paradosso di due osservatori, però hanno osservato qualcosa che esiste, che serpeggia la nostra società. Esiste in realtà una spinta che sembra soltanto in realtà effimera, teorica, basata su presupposti ideali ma non concretamente realizzati, di un mondo giovanilista. E non lo dico perché mi trovo ormai alla fine del mio percorso esistenziale, lo dico soltanto perché in realtà è così. È una forza efficiente, ancora attiva, ancora veemente, con degli strumenti concreti di sopravvivenza, che un domani ci fosse realmente un reale problema economico, un reale problema sociale, sarebbero gli unici capaci di seminarsi un orticello e di piantarsi due patate e poter sopravvivere. Gli altri cosa fanno? Io ho fatto un viaggio in Frecciarossa, Roma-Milano, la giornata di ieri. C'erano tre signore su 40-45 anni, tutte e tre parlavano i loro figli, età media 17-22 anni, che stazionavano dentro casa e che in realtà non facevano una mazza. Erano tutte e tre separati, i mariti erano già andati e si erano rifatti delle vite con altre persone. E questi figli avevano una costante, non facevano una mazza la mattina e la sera. Il sabato uscivano, tornavano la sera, mamma mi sono ubriacato, se mamma diceva qualcosa provavano a menarla. È un paradosso, è chiaro, ma queste rimpiangevano i vecchi tempi di una volta tanto... Diamoci anche noi un occhio a quello che potrebbe essere il mondo se tornasse il potere degli Umarell, perché in realtà gli Umarell sono già al potere. Ma il paradosso che non mi spiego, e forse Speroni può darmi una mano, le Brigate Nonni combattono contro un potere costituito, ma il potere costituito è fatto da loro coetanei, anzi da persone ancora più ammalate di gerontocrazia rispetto a loro, combattono contro altri vecchi. Sì, ma sono i loro traditori, perché in pochi hanno accumulato tutte le risorse abbandonando i loro coetanei a se stessi, al loro destino. Quindi sono traditori della loro generazione, degli Umarell. Giovanni da Forlì, buongiorno. Buongiorno. Parli pure tranquillamente, senza reticenze. Le concederò il beneficio dell'anonimato, stia tranquillo. La ringrazio. Sono organizzati... Quando il medico di base apre alle 8 di mattina, loro alle 7 sono lì per prendere anche le medicine, quelle che ancora passa gratuitamente l'USL. E sapendo che cambiano in continuazione i parametri per poter prendere i farmaci in classe A, fanno scorte, prendono derrate importanti. Questo coincide perfettamente con questa organizzazione militare che ha individuato Matteo Speroni. Certo. Prepararsi, diciamo, delle retrovie e naturalmente anche, diciamo, il necessario per eventuali problemi di salute, di integrità. Si preparano all'ospedale per la guerra. Matteo Speroni. Sì, certo, e anche gli orti comunque sono importanti, come citavi prima, perché sono una risorsa in tempi difficili e soltanto gli anziani li sanno coltivare. Marco da Brescia. Marco, lei ne ha individuati qualcuno? Sì, sicuramente mio suocero. Io devo fare il delatore nei confronti di mio suocero. Lui mi è alla base, diciamo così, uno dei punti cardine dei supermercati e ipermercati. Compra solo i prodotti Civetta e solo le offerte super mega scontate. Speroni, questo è un sintomo, è un combattente, un signore si comporta così. Si sta preparando sicuramente. Ah, quindi è individuato perfettamente. Giulio da Mantova. Sì, pronto. Anche lei ha una notizia. Sì, allora io ho dei nonni. Stia caldo, stia tranquillo, non sia così concitato, l'aiuteremo noi. Prego. Sì, io ho dei nonni che sono dei combattenti straordinari, sono sempre pronti a prendere i nostri figli quando per qualche motivo non possono andare a scuola e non solo, ci preparano le provviste per quando noi torniamo a casa da lavoro, noi abbiamo già le provviste pronte, abbiamo già la nostra scodella, il nostro piatto, insomma lo dobbiamo soltanto... Perfetto, ricordare. Danilo Masobasotti, velocemente, il fatto che i nonni prendono velocemente e volentieri nipoti, c'è anche una forma di passaggio di indottrinamento, si può dire, di questi ragazzini, saltando una generazione i nipoti staranno con i nonni combattenti probabilmente invece con i genitori mollacchioni. Sì, è probabile che la rivolta possa partire anche dai nipoti, perché comunque i genitori sono veramente innocui, rappresentano proprio la fiacca dell'Occidente. Gli Umarell hanno individuato nei propri figli questa fiacca, allora cercano di passare il testimone ai nipoti. Ogni giardinetto diventa un campo scuola, diventa un luogo di addestramento paramilitare. Melog 2.0. Sulla prua della rivolta c'era il gruppo di rivoluzionari meglio organizzato, più numeroso ed esperto, le Brigate Nonni. Composte per lo più da neopensionati, alle brigate si erano uniti vagabondi, psicopatici, freak, immigrati, disperati. I punti di forza delle brigate erano molteplici. Il numero, potenzialmente avrebbero potuto essere milioni. L'esperienza, erano donne e uomini con un lungo passato. Conoscevano meglio dei giovani i fatti della vita e la psicologia umana. Il temperamento, più riflessivo di quello di un ragazzo. La determinazione, non avevano più nulla da perdere. 800 24 0024. Stiamo rivelando questa mattina ciò che è stato annunciato al mondo, che è ancora Foricchi da Mercante, nel libro dossier di Matteo Speroni, giornalista Corriere della Sera, scrittore, Brigate Nonne, i ribelli al tramonto, e Cooper, collana Storie. È un libro in cui, come avete sentito, parla di questa rivolta sotterranea di cui si cominciano ad avere sintomi evidenti e coerenti nel mondo. Siamo questa mattina corroborati nella nostra ricerca di individuare, ma non perché vogliamo reprimere, ma semplicemente per avere maggiori conoscenze su un fenomeno che finora è abbastanza sotterraneo, Danilo Maso Masotti, autore del libro Umare Els, editore Pendragon, e che nel suo sito umarels.it raccoglie quella che è la sua testimonianza quotidiana di foto raccolte dell'organizzazione di queste Brigate Nonni, che a Bologna sono particolarmente virulente. Danilo, mi chiedeva, Matteo Speroni può venire a fare uno scambio di informazioni a Bologna? Lui vorrebbe venire a raccontare delle Brigate Nonni a degli Umarels, in modo che possano venire alla luce. Io ho già centinaia di telefonate, le persone vogliono raccontare e dare testimonianze. Sei d'accordo? Sì, sì, quando vuole lo accogliamo a braccia aperte e gli farò incontrare tantissimi Umarels. Ecco, io una cosa dico. Una cosa, Danilo, non temi per la tua integrità, perché tu hai dato informazioni al mondo anche abbastanza delicate, su livelli organizzativi abbastanza segreti. Poi la stessa domanda la farò a Speroni. Non temi che alla fine la gloriosa figura del rivelatore di Umarels possa nuocerti in qualche maniera, perché se si alzerà il livello della lotta saranno costretti a eliminarti? Questo è probabile, però ci voleva qualcuno che mettesse in evidenza quello che era sotto gli occhi di tutti, insomma. Matteo Speroni, tu stai continuando la tua operazione di giornalista, soprattutto dopo aver osservato le Brigate Nonni, e hai fatto questa mattina, se a me, ma velocemente, un rapido dossier di episodi di cronaca sotto gli occhi di tutti, ma se concatenati danno la prova concreta dell'operatività delle Brigate Nonni anche soltanto non soltanto nel nostro paese. Sì, alcuni piccoli segnali di questo mondo sotterraneo dove ogni tanto le talpine escono alla luce. Per esempio, non so se chi si ricorda che a febbraio di quest'anno del 2011 a Carrara molti anziani si sono riuniti in una consulta per protestare contro la soppressione dei bus la domenica mattina. Questo perché evidentemente molti, non avendo più la patente, non potevano andare a trovare amici e parenti in ospedale e si sono riuniti in un gruppo per protestare. E lo stesso hanno protestato contro la soppressione dei mezzi pubblici a maggio di quest'anno a Gaggiano, in provincia di Salerno. Ma un'altra protesta interessante è stata ad agosto, sempre del 2011, a Bissuola, in provincia di Mestre, dove 108 utenti degli orti comunali si sono uniti in una contestazione per la troppa burocrazia dell'assegnazione degli orti. E forse la più eclatante di quest'anno che abbiamo riscontrato è stata nella capitale, a Roma. Il 10 marzo 2011, 700 soci del centro anziano del quartiere Giardinetti si sono riuniti in Campidoglio per protestare contro la chiusura di questo centro da 3 anni e il comune non firmava la riapertura. Allora cosa hanno fatto in piazza del Campidoglio? Hanno messo la musica, si sono messi a ballare, hanno trasformato la piazza in una balera allo slogan, al motto di Alemà a redacce la sala da ballo. Ecco, questi sono episodi che dovrebbero far riflettere gli amministratori. È arrivato il momento che anche le Brigate Nonne escono allo scoperto, e le testimonianze che abbiamo sono veramente impressionanti, non immaginavo io questo tipo di reazione. Cristina da Udine. Sono Cristina da Udine e volevo solo portare una piccola testimonianza. Mi sono collegata un po' tardi, forse non ho seguito tutto il discorso da capo, però siamo una famiglia normale della provincia di Udine, mamma, papà, 4 figli, con 4 nonni alle spalle, genitori e suoceri fra i 60 e i 70 anni, tutti patentati. E sono un esercito silenzioso che alle nostre spalle ci permette di lavorare, di crescere i nostri figli con serenità, fin quando sarà possibile. E quindi voglio dire che queste persone, anche in modo silenzioso, sono comunque capaci di insegnare ai nostri figli a crescere, e sono ancora forse le ultime persone che sono in grado di indignarsi di fronte a comportamenti errati. Quindi lei non può assolutamente né censurare né prendere distanze rispetto all'impegno dei suoi quattro nonni di scendere in campo e iniziare la lotta armata, uscire dalla clandestinità con le brigate nonni. No, secondo me no. Grazie. Perché comunque sono capaci di indignarsi nel modo giusto e senza interessi. E quando si arrabbiano possono anche far paura. Secondo me sì. Gianfranco da Roma. Ciao Gianluca. Un'altra testimonianza. Allora, io sono quello che comunemente viene definito un paparazzo, quindi sono a contatto quotidianamente con vari settori della nostra società. Ah, ti devo dire, io sono sostenitore e fiancheggiatore delle Brigate Nonni per il semplice motivo che rappresentano la parte migliore della nostra società. Cioè un po' il passato, però anche il presente, cioè coloro che potrebbero dare una svolta decisiva in questo momento alla nostra società che è corrotta, piena di problemi e tutto quanto. Sono persone che sono sempre state nell'ombra, che non hanno mai fatto valere il loro potere, che però è giusto in questo momento, ecco, dicano la loro. Beh, in effetti in questi giorni il sindaco di Roma se ne sta facendo passare di illustri di nonni in Campidoglio, visti forse anche occasioni per te di lavorare. È proprio una questione di immagine per mettersi in mostra il sindaco, perché io per esempio frequento quotidianamente il parco che sta di rimpetto alla mia casa, che un tempo era un parco rigoglioso e tutto, adesso come tanti altri giardini, se non vogliamo dire parchi, della nostra città sono pieni di cartacce, escrementi e tutto quanto, e nessuno fa nulla. Ah, queste persone che hanno vissuto sempre in modo, diciamo, civile, in modo riguardoso nei confronti del potere e tutto. Per esempio questa la mia zona, una zona, diciamo, abitata da persone che hanno fatto parte delle istituzioni, quindi carabinieri, polizia, quindi tutti i pensionati, settantenni, ottantenni di queste istituzioni, sono sempre stati nell'ombra, non si sono mai lamentati. E adesso scenderanno in piazza, poi sono anche persone che hanno un addestramento di tipo militare, sanno usare le armi, sono ex poliziotti, ex carabinieri, quindi probabilmente rappresenteranno le avanguardie, i gruppi d'assalto, sei d'accordo Sperone? Ah sì, certo, sicuramente. L'ex carabiniere è un tipico rappresentante delle Brigate Nonni. È un tipico rappresentante, e un'altra cosa che hanno dalla loro come punto di forza, a proposito, appunto, sono ex, per cui non hanno neanche più ambizioni professionali, possono dedicarsi completamente all'ideale. Nulla da perdere, tutto da guadagnare. Carlo da Bologna. Salve, innanzitutto complimenti, sono contentissimo di questa finestra sull'attualità, sulla cronaca. Ma poi il fatto degli Umarell che a Bologna è stato veramente spettacolare come allora lei faccia questa confessione: suo padre è un combattente delle Brigate Nonni? Mio padre è un esemplare meraviglioso di Umarell, è proprio di quello che volevo parlare. Pensate voi che abita un condominio bello bello grande, e lui è il classico Umarell da garage, quello che ha sempre qualcosa da fare in garage. Il condominio è ben felice di questo, perché si sente da questo punto di vista qua protetto. C'è quel signore lì, non dico il cognome adesso, naturalmente conosciuto per cognome, che ci pensa lui, qualsiasi cosa si fa riferimento a lui, e paradossalmente può tenere lontano anche i malintenzionati. E ci penserà lui anche quando sarà il momento di scendere in piazza e fare sentire anche veramente la forza dell'indignazione. Nadia da Milano. Gianluca? Lei è una fiancheggiatrice, una staffetta? Allora, io non faccio parte di nessuna brigata. È una combattente libera, sciolta. È una combattente pacifista, però, perché non mi ritrovo. Adesso io poi ho cominciato ad ascoltare la trasmissione. È dell'ala delle colombe, diciamo così. Sì, però faccio tutto quello, mi sono identificata con questi nuovi nonni, io ho 65 anni, quindi nonna da ma poco. Ma che incarico le danno lei operativamente? Ma sostanzialmente un incarico... Cosa potrebbe fare? Tengo la contabilità, tengo i nipoti, aiuto economicamente, organizzo le case e mi sento ancora il perno della famiglia. Sì, ma nel caso che diciamo si passasse a una fase successiva in cui si comincia a uscire dalla clandestinità e scendere in campo, allora, quale sarebbe il suo ruolo operativo? Sarebbe la spia, la mandano oltre le retrovie cercando di... Ma questo non lo so, perché mi è... Comunque io penso che questo... Cosa se la sentirebbe di fare, ecco? Non saprei, non so, perché a suo tempo io ho fatto una militanza, e di questa forse anche un gene che ci portiamo dietro, perché i 65 anni comunque a 20 anni... Quindi sarebbe in grado almeno di addestrare al combattimento delle giovani reclute? Così potrebbe essere. Spero nelle donne, nelle brigate nonni, che ruolo hanno, in particolare in quelle che hai osservato te? Beh, hanno un ruolo conforme all'attualità. Le donne non sono più le donne di una volta, le donne sono come gli uomini. Per esempio una combattente... Tu ne hai conosciuta una in particolare? Ne ho conosciuta una combattente... Anestesista. Ex medico anestesista, anche lei ex ovviamente, e si occupa di preparare le pozioni che possono essere utili per le azioni operative, addormentare la gente. Il suo nome evocativo è Lucrezia. Mi fa pensare questa signora di Locri, 45 anni, che mette la benzina dentro il succo di frutta dell'ottantenne. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Il buongiorno ci vede in prima mattina. Amano trascorrere le loro ore a zonzo per la città, mani rigorosamente dietro la schiena, nella loro tipica postura. Gli Umarels passeggiano osservando il mondo che cambia, sentenziano e criticano. Le punk best bisognerebbe... Le punk best bisognerebbe ammassare di tutto. Poveretti, così stanno, soffrono meno i cani. Sì, è loro, perché, esatto. Ma però quegli altri, tutti i movimenti sono utili, tutti i movimenti sono utili. Vicino porzellane. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie di fagiani, caccia via queste mosche. 800 24 00 24, stiamo parlando di Brigate Nonni, fenomeno esplosivo scoperto da Matteo Speroni nel suo libro proprio Brigate Nonni, Ribelli al Tramonto, edizione Cooper. Matteo Speroni l'ha osservati, l'ha visti, li ha raccontati in dei quartieri di Milano. Danilo Masomasotti aveva anticipato questo fenomeno, ti hai sentito, questa è una registrazione di qualche anno fa, e già dall'idea dello spirito sanguinario degli Umarels, vero Danilo? Sì, queste, ho sentito le voci, è un documentario che abbiamo girato, adesso ne ho girato un altro. In tempi non sospetti. Tempi non sospetti, perché comunque la figura dell'Umarel qua a Bologna, ma penso ovunque, è sempre esistita. Io ho sempre avuto questi Umarel anche quando ero bambino. Sì, ma l'organizzazione militare è un fatto nuovo. Pronto? L'organizzazione militare è il fatto nuovo degli Umarel. L'organizzazione, sì. E poi prima c'è stata la telefonata di un mio concittadino che ha parlato di una cosa molto importante, che è il condominio. Certo. Ogni condominio che funziona ha un Umarel. I condomini che vanno allo sfascio sono quelli dove non c'è appunto un Umarel. Che mette quei famosi cartelli, non fate la pipì dietro gli angoli, quelle cose lì. Sì, queste cose che attaccano dei cartelli minacciosi e dopo, cioè, legiferano all'interno di ogni condominio e dopo il condominio funziona. Ecco, Speroni, nell'organizzazione militare tu hai osservato nei quartieri periferici di Milano il controllo del territorio attraverso quali direttive accade e funziona. Abbiamo già parlato prima dell'apporto di alcune donne, diciamo di una rete logistica, una ex anestesista che si occupa appunto dell'eliminazione o perlomeno della messa in condizioni di non nuocere di alcuni nemici, di alcuni ostaggi. In particolare però il territorio come si prende, come si conquista? Ma secondo, innanzitutto per genesi naturale, perché il combattente delle Brigate Nonne lo conosce benissimo il territorio grazie alla sua esperienza, perché il quartiere dove ha vissuto, ha visto mutare e crescere, ha visto tutte le trasformazioni, conosce le varie ondate migratorie, conosce come si muove la polizia, gli orari in cui si muovono le automobili, per cui in sostanza quando noi vediamo davanti a un cantiere degli anziani nella postura degli Umarel con le braccia dietro la schiena che osservano le macchine lavorare, in realtà probabilmente stanno pensando alla prossima operazione. Sì, perché i cantieri, si sa, sono in realtà dei depositi di armi improprie, sono dei luoghi in cui possono essere nascoste persone, in cui ci sono un'infinità di risorse per occuparsi velocemente e fare operazioni guerriglia urbana. Mauro da Padova. Buongiorno. Sì. No, dicevo che io invece sono un combattente contro le brigate dei nonni. Guardi, io per dimostrare appunto il nostro spirito democratico e egualitario, ci aspettavamo che qualcuno dei nemici diretti delle brigate nonni parlasse, quindi a piena libertà di parola. Ma io ho avuto... Assumendosi tutti i rischi poi di quello che potrebbero fare a lei. No, beh, magari ci provano, però ancora ho delle armi di ricatto, perché in fondo poi vengono ricattati, per esempio... dal niente creare una discussione, poi dopo da questa discussione alzare i toni, poi per sei mesi non fare più vedere i nipoti, se no altrimenti. Quindi guerra psicologica, disinformazione. Psicologica e fisica, anche facendo mangiare, per esempio loro di solito o li fai mangiare per certi periodi quando ti invitano alla domenica, cosa che odio, a casa loro, quindi cibi ricchi di colesterolo, facendo richieste incredibili che ritornano alle loro vecchie ricette, poi quando sei là dici ma ho mal di pancia, ne voglio tanto, e loro invece pur di non buttare via nulla, perché sono taccagnoni, mangiano tutto, bevono, e poi alla fine il caffè corretto, grappini e versi, loro continuano a bere, invece io faccio finta di bere, butto la grappa nelle piante che sono nel salotto dei miei suoceri o di zia, anche perché in fondo. Beh, questa però è una guerra sporca, lei usa il corrispettivo della guerra batteriologica. La guerra per la guerra, che cavolo vuol dire? Poi sì, anche sì, tutte colonne, cioè per esempio adesso inverno, io prendo Natale, la sua testimonianza, saltare il Natale andando a sciare, loro vanno nei matti se non possono festeggiare il Natale con i nipoti. Quindi lei fa un'operazione incrociata di guerra psicologica e operazioni diciamo concrete di avvelenamento fisico di queste persone, facendoli mangiare colesterolo, facendoli scoppiare il diabete, alzare tutti i valori. È triste dirlo, ma è giusto che qualcuno esprima anche il dissenso, no? Sarebbe una trasmissione monocolore. Alessandro da Vicenza. Sì, buongiorno Nicoletti. Sì. Volevo raccontare un episodio che mi era capitato. Velocemente, che siete in tanti, sì, che voglio dare testimonianza, siamo quasi alla conclusione. Esatto, allora una signora mi è passata davanti perché aveva fretta di prendere il pane, allora la fornaia con la quale avevamo un rapporto di conoscenza da tanti anni ha detto: ma signora, guardi che tocca al signore prima di lei. Allora io gli ho detto: signora tranquilla, che tanto io sono in pensione, faccia pure, no? Volevo sottolineare questo fatto, appunto, perché loro hanno questa impazienza di dover fare le cose pur avendo il tempo che noi che ancora lavoriamo non guardi abbiamo, però lei ha equivocato, Matteo Speroni, sì, sa benissimo, non è impazienza, in realtà quella era una staffetta, doveva probabilmente approvvigionare la sua colonna di fuoco avendo fretta di andare dal fornaio, probabilmente era in un momento operativo, certo, stava operando. Luigi, molto interessante. Luigi da Milano. Sì, io faccio parte velocemente di tre gruppi specializzati delle Brigate Nonni. Il primo è il Cibernonni. Facciamo incontrare clandestinamente, sì, ad una volta i nonni con il portatile. Sì. Ciascuno insegna all'altro. Quindi Seconda, che sennò la sigla mi taglia. Secondo, faccio parte del gruppo recuperanti, nel senso che recuperiamo il materiale prima che passi l'AMSA a raccogliere. La terza a 10 secondi. La terza è una vendetta, che è la brigata antiliscio, perché abbiamo un conto aperto con gli ottantenni di oggi, quando negli anni 60 volevano il liscio. Ne perfetto, volevamo abbiamo profit. Chiuso. Grazie Matteo Speroni, grazie a quelli della Brigata Nonni, a domani.